5H. Ascolta e trasforma. Agli amici? Gli telefonerò domani. Agli amici? Telefonerò loro domani. Ai colleghi? Gli ho già mandato un SMS. Ai colleghi? Ho già mandato loro un SMS. Ai ragazzi? Gli consiglio di studiare il cinese. Ai ragazzi? Consiglio loro di studiare il cinese. Ai professori? Gli promettiamo di fare il nostro dovere. Ai professori? Promettiamo loro di fare il nostro dovere. Alle amiche? Gli auguriamo ogni bene. Alle amiche? Auguriamo loro ogni bene. Alle ragazze? Gli abbiamo dato tutti i documenti. Alle ragazze? Abbiamo dato loro tutti i documenti. Alle studentesse? Gli spiegherò come stanno le cose. Alle studentesse? Spiegherò loro come stanno le cose. Alle professoresse? Gli porteremo un mazzo di fiori. Alle professoresse? Porteremo loro un mazzo di fiori.